sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei a te, tu e cura altro becchino da parenzo, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero. Non è parvero, un papà nero che ascolta le mie canzoni in Venezia. Finalmente ti sei svegliato, Parenzo? Ti sei svegliato? A che ora l'hai messa la sveglia? Alle 19.13 questa sera invece delle 18.28? A che ora l'hai messa la sveglia? Abemus zanzaram! No, dimmi a che ora hai messo la sveglia, alle 19. Abemus zanzaram! No, l'ho messa, mi hai chiamato, mi hai svegliato nel pomeriggio quando io facevo la solita pennichella in stile Churchill, come sì, grande Churchill, certo. La pennichella pomeriggio. Mi hai detto che si procrastinava l'orario d'inizio della radiotrasmissione. Sì. E io ho parlato con padre Lombardi, ho verificato le notizie che tu mi hai dato ed è certo. E poi ti sei dimesso. Te lo posso confermare. Benissimo, e ti sei rimesso a dormire fino alle 19.12, va bene, d'accordo. Beh, non essendoci grandi novità, non avendo io notizie dal concistoro, diciamo ancora dal concistoro, e allora mi sono rimesso a riposare un attimo. Allora, la prima cosa che c'è da fare è abolire i commenti dei politici sulle dimissioni del Papa. Cominciamo da qui. Aboliamoli, ecco, bravo, sì. Perché sono venute fuori una serie di stronzate già oggi pomeriggio da fare accapponare, sì, la pelle. Accapponare la pelle. Ho letto, sì, tutti che intervengono, tutti sul Papa. Manca soltanto gli amici di Casa Pound, mancano sul Papa, gli amici di Casa Pound. Senti, che ne so, facciamo un esempio, che so, Casini. Siamo molto vicini anche al Papa. Vogliamo bene al Papa perché ha dimostrato con questo gesto di essere un autentico rivoluzionario. Ma ora spiegami, siamo molto vicini, vogliamo bene al Papa perché ha dimostrato di essere un autentico rivoluzionario. Vabbè, Bersani, sentiamo, dai, per par condicio, su. Un grande teologo che ha sempre messo la teologia comunque a servizio della grande tradizione della Chiesa, e quindi un gesto del genere è un gesto di impostazione anche. Eh sì. Ecco, è un gesto di novità per il futuro. Capito? Ma scusami, volevo capire, invece Oscar Giannino fare per fermare il declino, cosa ha proposto? No, nulla. Come avete sentito, David Parenzo questa sera in collegamento da un torpedone, come al solito, dunque la linea andrà e verrà, ci sarà e scomparirà, come d'habitude. Ma noi siamo qui presenti in diretta anche oggi, il giorno in cui cambia il mondo, dicono alcuni, ma per noi non cambia nulla, cioè dire le dimissioni del Papa. Oh, Grillo propone che sia nero il Papa, spero nero come Obama. È una candidata del Movimento 5 Stelle in Lombardia, la signora Carcano, candidata a presidente della Lombardia, vorrebbe che fosse abolito lo Stato Pontificio, cancellato lo Stato Pontificio. Ma su tutto c'è Berlusconi in Veneto che ci prova con una ragazza, con una signora, chiamatela come volete, con una donna, semplicemente un'impiegata di un'azienda, la Green Power. Ma insomma, la polemica ha già fatto il giro. Berlusconi che dice quante volte vieni, poi dice alla signora di girarsi e allora le lascio il mio numero, eccetera eccetera, con tutte le solite cose sulla volgarità di Berlusconi. Avanti, dillo anche tu, Parenzo, è stato volgare. Avanti, di la solita cosa, è stato volgare, su, David. No, non è stato, questa volta qui bisogna dire non è stato volgare, ma è lui, è Berlusconi, ma chi ci aspetta, è mica un... Ho capito, però qui ha detto alla signora quante volte viene, abbi pazienza, cioè quante ma volte lui, viene. Io non mi voglio più scandalizzare, ma è Berlusconi, ma di chi stiamo, ma stiamo parlando di Berlusconi, non del marito della regina d'Inghilterra, è Berlusconi. Vabbè, ma che è pur sempre Berlusconi? È pur sempre il candidato di una delle coalizioni principali del PDL, ma eccetera. È evidente che è volgare, è evidente che è inopportuno. Vabbè, fammi sentire, però fammela risentire, facciamola risentire a tutti, stai zitto. A costo zero, remontiamo, due piante. Scusi, mi consente, ma non ho capito molto bene. Lei viene Vieni. Sì. Sì, ma scusi, una volta sola? No. Sono due gli impianti. Quante volte viene? Se, allora, possiamo mettere due impianti più LED. Più visita per ogni volta. Possiamo mettere anche la bicicletta elettrica. Ho capito. Quante volte quindi? 3, 4, 5, dipende dalle esigenze. Con che distanza temporale? Una visita dipende dai nostri tecnici. Io non sono nemmeno sicuro che la signora avesse capito sul momento. Poi a un certo punto dice, si giri un attimo. Va bene, mi sembra che sia tutto sommato un'offerta conveniente. Ottimo, ci piace. Si vuole girare ancora un'altra volta? Via. Sì, è un'offerta conveniente. Bene, è una carta speciale. Sì. Quindi deve schiacciare bene. Sì. Prego. Devo firmare? Sì. Qui, due sì. copie. Una per me, personale. Sì, già che ci sono le metto anche il numero di telefono. Sì. Vabbè, questo è il numero di telefono, è anche vecchio, ogni tanto lo distribuisce in giro. Questa è la Zanzara, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ma abbiamo una grandissima esclusiva, grandissima esclusiva. Stasera... Padre Lombardi? No, Padre Lombardi no, ma di più, più in alto, più in alto, più in alto, più in alto. Bagnasco, in alto. Bagnasco. No, no, più in alto. Tu devi sapere che l'annuncio è stato dato in latino oggi, delle dimissioni. Beh, sì, del Papa. Certo, in certo, latino. Certo. Qui noi avremo. Ce l'ho qui, ce l'ho. No, no, fra noi abbiamo. Sì, ma lascia perdere. Grazie, Sago Bobis. Lascia perdere. Amore et labore. Non mi interessa, aspetta. Vabbè, abbiamo l'annuncio delle dimissioni in italiano. Eccolo qui, Papa Ratzinger, buonasera. Cari fratelli e sorelle e cari ascoltatori di Fede e Non, che mi ascoltate dalla radio, in questo giorno particolare. Desidero annunciare a voi la mia decisione di interrompere il mio servizio pontificio. Annuncio che faccio a tutti voi papale. Grazie, Papa. grazie, signor Papa. Io non so nemmeno. Dopo il 28 probabilmente mi dedicherò alla musica e aprirò un pub. Un pub? Un pub. Un pub, scusi signor Papa. Ma lei Papa, ascolta la Zanzara? Io non so nemmeno come chiamarla, se signor Papa o dottor Ratzinger, eccetera. Pontifex. Dove andrà ad abitare? Dicono a Castel Gandolfo, all'interno delle mura vaticane. Solo questa cosa mi serve, poi interrompiamo il collegamento, le giuro che non le rubiamo più di un minuto. Vado a stare dalle suore. Ah, dalle suore, eh? Beh. Devo trovare una casa in affitto, è difficile. Molto difficile. No, come difficile? Per beh, un Papa sì, non è possibile. Beh, molto complicato anche per il Papa trovare casa in affitto. Dunque si rifugia dalle suore dove non paga. Immagino che non paga dalle suore, no? Scusi, dottor Ratzinger. No, non credo che paga. Ah, non credo che paga. Massimo Lopez, grandissimo! Come stai? Bene. Beh, devo dire che oggi ho cercato le imitazioni di Ratzinger dappertutto e l'ho cercate su YouTube ovviamente e ho trovato questa qua particolarmente riuscita, per questo che ti abbiamo chiamato. Anche perché è quella più radiofonica forse, è vero che c'è anche una mimica quando l'hai fatta, le volte che ti è capitato sì, di farla. C'è quella mimica, c'è quella con l'eco, insomma ci sono. Ah, quella con l'eco è bellissima, che hai fatto una volta pure dalla Cabello se non sbaglio. Con l'eco sbagliato, sono in varie situazioni. Insomma. Ma quella con l'eco si può rifare oppure... Quella con l'eco si può rifare perché... Cari fratelli, oggi, in questo giorno di gioia, desidero... E c'è l'eco che ritorna tagliato quello di prima. Ma sarebbe la piazza in pratica, no Massimo? Esatto. Questa l'ho trovata una delle migliori. Adesso lascio agli ascoltatori la scelta tra quello che avete sentito fino adesso di Massimo Lopez, che è a teatro con varietà. Dove lo fai il teatro, Massimo? Sì, adesso lo faccio venerdì e sabato, sono a Bologna al Teatro delle Celebrazioni. Andate tra tutti, l'altro devo cambiare tante cose, perché nello spettacolo ci sono i papi, il papa, si parla di come viene eletto un papa, insomma tutte queste cose qua. Beh, per cui dovrò ti tocca lavorare, un po' le cose. Ti tocca lavorare, questa è la realtà. Sì. Allora, scegliete tra quello che avete sentito adesso e un'altra straordinaria di Crozza, che però ovviamente è in costume, bisogna anche vederla, per carità, la radio non è che... Tutta la vita, bisogna... tutta la vita. Allora, sentiamo Crozza, adesso perché c'hai Lopez devi subito lisciare il pelo perché c'hai in diretta. Se ci fosse caso... stato Crozza avessi detto Crozza, dai. No, come non sono Crozza. Eh? sono Crozza, dimmi. Scelgo Crozza. Bravo Crozza, è bravissimo. È meglio lui di Lopez. No? Sentiamo Crozza sul Papa. Io non posso avere un po' di colore anch'io. Una stola verde che mi staglia. Una tuta mimetica va bene anche. Ciao Papa, ciao anfibi. Che tanto non si vede la finestra quando Papa parla. Hai scena 3 minuti all'inizio dell'Angelus. Ha capito? È pieno? Completamente. Tutto esaurito. Completamente esaurito. E lo credo, sono tutti omaggi. Zanzare. Dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Hanno riso sul fatto, per farvi capire che queste robe ci riusciremo a levarli dai polsi delle famiglie e delle imprese. Allora io ho detto, ma è come Gandhi, no? Come Gandhi? Che Gandhi ha cominciato da solo? E poi a un certo punto Mahatma Gandhi ha detto, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, ma poi vinci. Allora, un noto giornalista di un gruppo editoriale indipendente dalla politica ha scritto, si è montato la testa, crede di essere Gandhi solo perché è pelato. La mia risposta, ma ci vediamo più tardi, è un'altra. No, io non sono Gandhi. Ma soprattutto Berlusconi non è l'impero britannico, è Bisanzio! Se Oscar Giannino diventasse mai Scilipoti, prendetemi a calci nel culo quel giorno. Dice se potessi fare l'avvocato. Noi non saremmo andati a regalare un voto a questi miserabili. Noi faremmo un viaggio. Non ci danno una mano, non chiedono alla gente di non sprecare il voto. Hanno paura! Lo stesso rispetto della coerenza che ciascuno di noi è tenuto ad avere nella propria vita, anche nella vita pubblica di questo paese. È così che vinceremo! E ora avanti alla campagna! Dopo Giannino, solo noi qui alla Zanzara. Dopo Giannino, solo noi. Ma ricaricato. Solo noi qui alla Zanzara abbiamo l'annuncio. Bisanzio è meraviglioso, questa grande metafora. L'impero. Ecco, solo tu l'hai capita. Solo tu l'hai capito. Ovviamente, io ci ho messo 20 minuti per capirla. Che sono meno intelligente di te. Io sono meno intelligente di te. Lo devi accettare questa cosa. Sono più bravo. Sono più bravo, ma meno intelligente. Che sono due cose distinte. Sono due cose distinte. Però la grande metafora è che l'Inghilterra. Il grande impero non crolla, quindi non si poteva paragonare Berlusconi, certo, all'Inghilterra, certo, coloniale. E invece Bisanzio è stata occupata, d'accordo. Bisanzio è durato molto, perché quell'impero lì è durato, sì, no? Sì, sì. Però poi è crollato miseramente. Aspetta un attimo. Solo noi però abbiamo l'annuncio in italiano di Ratzinger che si dimette. Solo noi della Zanzara ce l'abbiamo. E beh, ogni tanto l'esclusiva, anzi spesso abbiamo l'esclusiva. In questo caso abbiamo l'esclusiva mondiale. Mondiale. Cari fratelli e sorelle e cari ascoltatori di Fede e Non che mi ascoltate dalla radio, in questo giorno particolare desidero annunciare a voi la mia decisione di interrompere il mio servizio pontificio. Annuncio che faccio a tutti voi papale. E poi abbiamo avuto la possibilità, caro David, di fare anche qualche piccola domandina, sempre in modo garbato, niente affatto incisivo, insomma, credo abbastanza gentile, no? Al signor Ratzinger. Del ruolo. Assolutamente. E soprattutto del ruolo del sacro soglio di Pietro. Esatto. E dunque gli abbiamo chiesto, ma lei dove andrà a vivere? E questa cosa del Papa è curiosa. Vado a stare dalle suore. Perché devo trovare una casa in affitto, è difficile. No, non credo che pago. Oh, a proposito della polemica di Berlusconi, io sto riflettendo, parentesi, sulla cazzata che ha detto questa del Movimento 5 Stelle che vuole abolire lo Stato Pontificio, la signora Carcano. La signora Carcano, candidata a guidare la Lombardia, che vuole abolire lo Stato Pontificio. Sarebbe ora di chiudere lo Stato Pontificio. Ma come si fa? Dai, su! Bersani, Berlusconi tratta le donne come bambole gonfiabili. 105. Io ho visto ieri cose solo la giornata tra ieri e ieri l'altro. Berlusconi, Maroni, Storace. Allora, Berlusconi che parla di donne più o meno nella sua testa come fossero bambole gonfiabili. Maroni che dice voglio una moneta lombarda. Storace che nei suoi stand, le sue cose, mette la croce celtica. Ora però non è che la croce celtica sia fuori legge, eh? Stiamo tranquilli. È un simbolo di un'associazione giovanile nel passato, della destra, dell'estrema destra, forse della destra semplicemente e basta. Ma non è che sia fuori legge, eh? Non è proibita. No. Mettere la svastica, vabbè, forse sì, mettere il fascio littorio, forse sì. Ma beh, mettere certo. La croce celtica non è fuori legge, non mi risulta, però. Detto è di molto cattivo gusto, Ma di cattivo gusto anche mettere il simbolo di una cosa in cui non si crede, se per te non va bene. Che vuol dire? No, cioè, perché è un simbolo violento, è un simbolo di morte, è un simbolo di sangue. Ma anche la faccia e martello violento. Da quel punto di vista. Non sono qui, perché non ha portato, ma secondo me può essere esposta tranquillamente la falce e il martello, come può essere esposta la croce celtica, a meno che che la falce e il martello ha portato la libertà in questo paese, i partigiani che che cosa c'entra? Vabbè, comunque lasciamo perdere questa polemica che è ridicola. Beh, un'altra bella è questa: ha preferito lasciare prima che lo esonerasse Zamparini. Scontro Berlusconi-Telese ieri sera. Andiamo a sentire quella sulle torri di Washington, quelle dell'11 settembre che sono state, erano di New York in realtà. Perché ha fatto lei si contratto? Ricorda cosa è successo ma nel 2001? Ma perché ha fatto il contratto? Si ricorda perché ha le torri, quegli studenti che dicono le torri sono andato a scuola a Washington non erano non ancora fatto. Crollate da quel 2 settembre e che del colpa 2001. Le due torri? Scusi, posso, è venuta posso, fuori Terese. Una crisi internazionale. Fra poco ti voglio leggere un'altra follia che ha scritto l'avvocato Marra Parenzo, l'avvocato Alfonso Luigi Marra sulle dimissioni del Papa. È una roba incredibile, ma non da ambulanza, da tre ambulanze. Voglio sentire prima Nando da Perugia. Nando, buonasera, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Nando, buonasera a tutti, grazie. Dei piccoli assist le voglio dare. Cucchi, perché viene criticata tanto la candidatura della sorella di Cucchi, dal signor Giovanardi ed altri? Ma che ne so, è roba vecchia, Nando. Lei è morto da questo punto di vista, morto! Va bene, va bene. Corona Balotelli, ce ne può fregare molto di meno, proprio perdere tempo lì. Lei cosa ne pensa dell'ascito che la signora Borletti ha lasciato a Prodi, di Pietro? La signora? L'ha lasciato tutto al partito. Di Pietro ci ha comprato delle case. Ah, quella roba lì. È giusto lei che i magistrati, no? Che dicono autonomia. Roba vecchia. Ora la taglio. Mauro da Mantova, buonasera. Buonasera, ufficiale. Dica. Ma c'è ancora quella sottospecie di giornalista che chiamava giornalista Parenzo? È come ecco l'idiota. Ecco il cretino, su. Ecco l'idiota. Non sono l'idiota. Tu sei solo un segaiolo, un emerito stronzo segaiolo, perché c'è un contorno occhi che mi sembra un calamaro. Ma oggi si è dimesso anche il Papa, Mauro, faccia il bravo, su, si è dimesso il Papa, stia tranquillo. E sa perché Cruciani si è dimesso il Papa? E perché si è dimesso il Papa, secondo me? Viene in mente un caffè corretto Sindona, mi viene in mente Cipriani che non sapeva giustificare... Un caffè corretto Sindona. Corretto Sindona. Lei dice che c'è tutto un complotto. Ma stranamente la Monte dei Paschi, che sarebbe poi Banca Agricola, Mantova. Sì, certo, la Monte dei Paschi. Aspetta. Dove Bersani va a prendere i soldi per pagarsi le campagne elettorali. Sì, certo, non c'è dubbio. Dove si trova lei? Ma perché lo fate? No, è che voi queste cose non le dite. Ma io le so, perché io ho le gole profonde che me lo dicono. Ah, beh, profondissime, guardi, gole profonde. Sì. Dove si trova lei a Mantova? Non è nato ieri. Non è nato ieri, su questo non c'è dubbio, che abbia sbroccato le porte. E allora, stranamente, la banca scusata, cioè la banca della VC, la banca dei cattolici, sì. E stranamente salta la banca dei cattolici, il Papa si dimette. Parenzo, No, ma voglio dire, ma è una cosa molto grave, perché fanno uscire sto povero idiota? Me lo tengo dentro. Che non sono mica nato ieri, caro il mio signor Cruciale. Parenzo non gli rispondo, che perché per me è meno di una scorreggia, quindi non gli rispondo nemmeno. Non si può parlare a dei venti che escono da di dietro, quindi non ci rispondo nemmeno. Non risponde, capito? Ma fanno uscire ogni tanto, perché? Ma le dentro le braccialette le trovo, no? Lei deve capire che non vada in giro, le coincidenze non esistono. Le coincidenze non esistono? Beh, no, certo. Ma perché, per esempio, la moglie di De Benedetti si chiama Silvia Monti e il Presidente del Consiglio si chiama Mario Monti? Ma che sarà la coincidenza? Ma esiste un dato di fatto, cioè che lei è un coglione. Ma come mai che ci sono queste coincidenze? No, esiste un'altra cosa di fatto. Aspetta. Ma cosa c'è in comune? Sì. Monti. E Parenzo? Non ho capito, chi è in comune tra? Tra Monti, sì. E Benedetti, sì. Taormina, sì. E Parenzo. Qual è? Sono tutti ebrei. Sono quella comunità finanziaria che ha messo in crisi il mondo intero per comprarsi il mondo a basso costo. Hai capito? Ma lei si è aggravato molto negli ultimi giorni. La stessa cosa che hanno fatto nel 38, ma che però hanno trovato un battitino che li ha stoppati. Ma adesso il bassettino non c'è più, uno che non ha i bassettini, che li stoppano, li trovano, perché comprare il mondo a basso costo sono capaci tutti. Cosa faccio? Butto giù le azioni. Mauro, siccome poverino è un malato, io ho rispetto per i malati, ma questa volta te lo devo dire, sei un coglione. Vabbè, ho capito. Mauro, mi dà l'indirizzo esatto, che lei, per lei ce ne vuole. Ah, quale indirizzo? Ce ne vuole una rafforzata, se parla del baffettino. Il baffettino, quel baffettino lì. Povero coglione. Quel baffettino ha ammazzato milioni di persone, imbecille, milioni di persone. Cruciale. Allora facciamo una stima, facciamo un campionato di morti. Sì, allora, sì. Dice abbiamo uccisi 4 milioni e mezzo, sì. Salin ne ha uccisi 8. Allora perché non criminalizziamo Salin e criminalizziamo il consumatore, sì, visto che ne ha uccisi la metà? Io vorrei saperlo perché. Anch'io lo vorrei sapere. Comunque, lasci l'indirizzo, di Mantova. Lasci l'indirizzo. Sì, Mauro, perché? Mi dica perché? Perché? Ma perché? Gli omicidi di sinistra sono poca cosa, sono più condannabili quelli di destra. Comunque guardi, lasci l'indirizzo esatto di Mantova. Vengono tre signori, non due, perché ne abbiamo presi tre. Tre signori, tre in camice bianco, non si preoccupi, non sono cattivi. Vengono lì. Quando si dice la verità va sempre fastidio. Dà molto fastidio. La riportano dentro proprio senza problemi. Senza problemi. Comunque, tanto a me non mi riguarda più, perché in Italia non è che ci sia molto. Ci sono ancora 3-4 mesi, poi me ne vado. Ma meno male. Ma non la tratteniamo. Anche prima, leninista, certo. Ci aspettano. Non saremo noi a trattenerla, guardi. Vada pure. Non saremo noi a trattenerla. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Allora, ha detto l'avvocato Marra, Alfonso Luigi Marra, le dimissioni di Papa Benedetto XVI sono una presa di distanza dal sistema politico e imprenditoriale, ora che esso, non essendo più in grado di dare risposte, sta per crollare sotto i colpi dell'autorità giudiziaria e del dissenso popolare. Sono pazze del mio sorriso. I centri del potere economico e il Bilderberg stesso che hanno guidato il mondo sono in sostanza falliti e il Papa non ha voluto essere coinvolto direttamente in questo immenso fallimento. Ma è completamente pazzo. Ma questo non è da ricovero, ripeto, ci vogliono tre ambulanze, non una, tre. Mamma mia. E mi stupisco che Sgarbi, caro Vittorio, come fai a stare appresso a queste follie? A queste follie, caro Sgarbi, come fai? Roberto da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Roberto. Allora. Sì, volevo solo darle un assist, volevo dirle che si è liberato un posto adesso per Berlusconi, così finalmente ce lo togliamo dalle balle, può andare a fare il Papa. Lei dice, Sì, sì, sì, è il suo posto, è il posto giusto. Lei dice che è pronto per fare il Papa? Sì, sì, è il suo, lui... Vabbè, questa qua è una battuta vecchia, però. È la sua massima aspirazione. È una battuta vecchia, però, questa qua. Sì, vecchia, vecchia, molto vecchia. Si è liberato il posto. Prima non c'era. Vabbè. Morta questa battuta, morta. Ma che ha detto? Cosa ha detto Saviano sul Papa che mi dicono essere una cosa di una banalità totale? Di una banalità totale, non sarebbe la prima volta, ovviamente, no? Però, Saviano deve occuparsi, però dico, mora, non è che si può parlare di tutto, secondo me. Allora, scelta umana o altro, cosa pensate sia accaduto in Vaticano? Ho la sensazione istintiva, leggendo le parole del Papa, che sia soffocato e voglia ripararsi. Se fosse così, per la prima volta sento di avere un moto di tenerezza verso questo pontefice. O forse è malato, come dicono altre voci? Mi dispiacerebbe se queste dimissioni rese pubbliche ora e non dopo la formazione di un governo fossero strategiche per la campagna elettorale. Mostrare la fragilità della Chiesa per chiedere compattezza al voto cattolico. Sarebbe terribile se fosse così, come la vedete voi, caro Saviano? Mostrare fragilità per chiedere compattezza al voto cattolico? Ma come ti viene in mente una cosa ridicola del genere? Come? La zanzara è quell'odioso insetto. Cioè, poi per chi dovrebbero votare i cattolici, secondo Saviano? Tutti quanti per qualcuno, eccetera. Ma abbiamo con noi una persona che oggi certamente non è scontenta. Aspetta, e fammi fare la trasmissione, però, amico mio. Mi interrompi quando parlo, abbi pazienza. È vero. E dai, su. Pax Tibi. Una persona che oggi certamente non è in lutto per le dimissioni del Papa. L'onorevole Concia, Partito Democratico, buonasera, in trasferta elettorale a Pescara. Buonasera, sì. Come sta? Bene, ma non sono in lutto perché per fortuna, ringraziati Dio, è vivo. No, certo, vabbè, chiaro, per carità, mica pensiamo che lei goda di un'eventuale morte del Papa. Assolutamente. No, assolutamente, la morte non si augura a nessuno, però esatto. Dal punto di vista politico, per la verità, questo Papa è stato un vostro, diciamo, del mondo dei gay, un vostro nemico, su questo non c'è dubbio. Diciamo, lo racconta la storia, sicuramente noi lo ricorderemo... Non lo ricorderete bene, non lo rimpiangeremo. Non lo ricorderemo, sì, come un Papa che ha detto che le unioni omosessuali minano la pace, penso. Che ci è andato parecchio pesante in gestale. Offendono la verità, è sicuramente un Papa ultra conservatore, molto reazionario, anche un po' solo, però io riflettevo su una cosa. Le riflessioni, sì. Che riflessione c'è? Come molto solo? Che poi come fa a sapere se il Papa è solo? Ho questa sensazione, cioè, di un uomo che comunque non è mai stato amato dalle gerarchie. E vabbè, quello, alcuni da, quello per alcuni sì, per altri, ma anche da alcuni sì, da altri no. Abbastanza solo da questo punto di vista. Ma si può dire che Saviano ha detto una cazzata con questa cosa dell'influenza del Papa? Cruciani è un suo punto di vista. Vabbè, ma ho capito, io non credo che sia così, però non credo che sia per compattenza. Si può dire che voi per poterla riferire alle elezioni italiane, su, dai. Sì, è troppo grossa. Diciamo, l'ultimo che aveva fatto il grande rifiuto era Celestino Visto. Ecco, io voglio chiedere una cosa, ma oggi si può dire che la comunità gay tira un sospiro di sollievo? Sì, un po' sì, dai, su. Ma io non è che mi aspetto un Papa progressista, non però so, che ne perché sa, in generale chi lo sa, dice. Però lei, peggio di così non si può. Beh, lui è stato un Papa molto conservatore, molto ossessionato dall'omosessualità, questo sì. Molto ossessionato. Dunque peggio di così non si può. Peggio di così non si poteva fare, dai, su, diciamolo. Difficile aspettarsi un Papa. Stati altri di papi conservatori, certo lui è stato uno dei più conservatori, diciamo alle soglie del terzo millennio, tra l'altro. Non è che siamo... Dunque si può dire che oggi un po' siete soddisfatti, siete contenti, tirate un sospiro di sollievo, perché non per la salute, dico per il fatto che Papa Ratzinger dal 28 febbraio non ci sarà più. È un gran conservatore e quindi a noi comunque nei nostri confronti non è mai stato tenero, insisto. su questo, no, su questo non c'è dubbio. Bene così, quindi bene così. Bene così. Vabbè, comunque bisogna anche dire un'altra cosa. Ma lei auspica, onorevole Concia, l'arrivo, ad esempio, non dico di un papa gay, perché forse questo sarebbe troppo, beh, adesso, no? Il papa gay. Non mi fate fare battute, per favore. Papa, no, deve fare battute, no, deve fare. No, neanche sotto tortura. Però no, comunque lei auspica. Non auspico un papa gay. No, poi no, però auspica un papa più attento alla modernità, ecco, questo sì. Un papa che magari dà un bacio ad un uomo, come accadrà a Sanremo, come accadrà a Sanremo tra poco, un'altra carnevalata. Ma sarebbe un papa che non fosse appunto così. Io non mi aspetto mai da un papa che dica sono favorevole ai matrimoni gay. Non me però lo un papa che dia una carezza ad una coppia gay, sì. Il papa che dia una, ecco, sarebbe bella come immagine. Sarebbe molto bella, naturalmente. Ecco, sarebbe bella l'immagine di un papa che dà una carezza ad una coppia, omosessuale. Pensi che bellissima immagine, una carezza. Sarebbe bella, sicuramente, ma molto improbabile. Dopodiché mi basterebbe un papa meno ossessionato all'omosessualità. Dal sesso, direi, Sì, diciamo, al sesso, alla sessualità, dalle donne, no? Comunque lo sai perché godo io, Parenzo? Innanzitutto sono offesissimo con la comunità omosessuale. Perché sono molto offeso. Ha ragione, io condivido questo. Perché hanno incoronato Icona Gay 2013... niente proprio di meno che, una cosa incredibile, Franca Leosini. No. Sì, Franca Leosini, ma per carità, bravissima giornalista, una trasmissione straordinaria, storie maledette, ma Icona Gay 2013, Franca Leosini. Adesso, devi fare, evidentemente, Cruciani, devi fare molta strada ancora, eh? Ma sì, ma perché lì c'è questo pregiudizio, capito? Questo pregiudizio, evidentemente, nei miei confronti, che non riesco a capire. Non è uno deve diventare. Ma perché è gay la signora Leosini? Posso anche aiutare a fare molta. Ma è gay la signora Leosini, no? No, ma che, ma figura. Beh, ma no, che, perché non, non credo, è. No, non lo so, ma non credo. Incoronata addirittura Icona Gay 2013, ma invidioso, Parenzo, alla Mucca, io sono invidioso, devo dire, sono molto invidioso, volevo essere incoronato io, devo dirti la verità, cioè, ma avessero incoronato sarei andato incoronato lì sul palco dell'Icona Gay 2013. Poi ero finito, ero morto a quel punto, però Parenzo, aiutalo a raggiungere, ma no, diventava Parenzo, sarebbe pronto a essere Icona Gay. No, beh, Parenzo no. No, ma io, senta, ma secondo meno. Lei se potesse votare il papa, per chi voterebbe in Italia? Forse per Monti, credo. Per Monti, eh? Sì. Per Monti, dice. Vabbè, o per Monti o per l'UDC, diciamo. Beh, diciamo che la CEI l'ha detto, no? Comunque la cosa per cui godo di più, lo sai qual è? Che adesso, fra poco, con tutto il casino che hanno fatto, la Concia, il matrimonio, e la cosa, cioè, si ritroveranno insieme alla Binetti, a Casini, a Buttiglione, a Monti, no. Come no? Se ci votano gli italiani, vabbè, quello che c'entra, quello è chiaro, però secondo le previsioni lei si potrebbe trovare di nuovo insieme a Binetti, Casini, no, Buttiglione, no. Monti, tutti questi qua, alla comunità di Sant'Egidio, tutti questi qua che poi non solo di matrimoni gay, ma proprio di una legge a vostro favore, ma nemmeno lontanamente. Non ti preoccupare. Deve fare. Rimpiangerete Fioroni, la Bindi, tutti rimpiangerete, tutti quanti. No, guarda, non è aria per quella roba. Come no? Perché... Senta, se lei dovesse votare la fiducia a un governo dove c'è dentro Casini, Buttiglione, eccetera, la voterebbe la fiducia a questo governo? Io non ci voglio pensare. No, vabbè, ma ci voglio pensare. Immaginiamo, ne vuole conci, immaginiamo. Lei a un certo punto si trova di fronte al fatto che ci sarà un governo PD, UDC, Vendola, mi sembra impossibile. Mettiamo che ci sia questa possibilità. Ho capito, con Casini presidente del Senato, come si dice, Monti come futuro presidente. Guarda, ma lei la vota la fiducia a un governo dove c'è l'UDC, sì o no? Non ci posso pensare, perché se no mi mancano le forze per continuare questi 12 giorni di campagnetta. Vabbè, ho capito, ma mettiamo che succeda. Lei lo voterebbe la fiducia o mai? Vabbè, non lo so, ho capito, non lo so. Democristianamente ti rispondo che non lo so. Vabbè, ma oggi ti risponderei di no. Vabbè, ma sarebbe un obbrobrio, sarebbe un obbrobrio. No, devo raccogliere le forze per convincere gli italiani che devono dare. Vabbè, ma quello adesso lei vi convince in Abruzzo dove sta andando, vabbè, quello è chiaro. Comunque lei lo voterebbe un governo con l'UDC o mai? O mai? Non lo so. Sono ipotesi troppo. Ma guardi che le dovrebbe votare un governo con Casini che ha detto che sostanzialmente l'omosessualità è uguale alla pedofilia. Ma dove si trova che non sento adesso. Niente? Ancora in macchina? No, sto ferma dentro una stanza mentre stanno facendo l'iniziativa che dovevo andare. sempre facile. A un certo punto gli dicono: bacia i bambini, abbraccia i cani, i pesci rossi. Oh, ma io ci tenevo, io gli voglio bene a Monti, me lo hanno reso una caricatura, una fotocopia di Mastella, cioè gelosa più di me. Scappo sotto al letto, non parlare, non gridare, tu sei come una piccola zanzara. Se Oscar Giannino diventasse mai Scilipoti, prendetemi a calci nel culo quel giorno. Una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. David? Eccolo. Ci sei? Ma lo sai che l'altro giorno Feltri ha twittato una cosa memorabile. I gay vogliono il matrimonio quando il matrimonio è fallito. Questo un po' è vero però. Cioè, il matrimonio è sostanzialmente fallito in tutto il mondo. Sì, è un istituto e un voi, po' in crisi. E voi oggi volete... che noi lo faremo risorgere. Eh sì, lo farete risorgere con che? Con la fedeltà. Dai, su. Lei è fedele, signora Concia, è fedele? Sì, io sono fedele, sì. Ma sì, ma non ci credo, ma non ci credo. Ma perché fa la domanda? Perché si dice che invece i gay sono tendenzialmente infedeli? È anche questo un luogo comune? Ma sì, esatto, è un luogo comune legato a questa idea, no, di noi che siamo borderline, vite certo. Perversi, cosa, perversi. Cosa, niente di più falso, cioè io so appunto... ma ne conosco tantissime di coppie normalissime, anche molto noiose. Certo. Comunque lei mi deve sostenere. No, ma ha ragione, per questa cosa è veramente uno stereotipo vergognoso. Lei stereotipo è uno vergognoso. Stereotipo assurdo. Lei mi deve sostenere. Non è vero. Mi deve sostenere in questa battaglia sull'icona gay. Io sono veramente offeso da questa cosa. Superato dalla Leosini, detto con tutto dovremmo rispetto. Dovremmo fare molta strada. Ma no, ma che molta strada? Io sono. Non bisogna fare assolutamente molta strada. Non c'è più grande difensore del matrimonio gay, delle istanze gay, come il sottoscritto, forse in tutta Italia addirittura. Esageriamo. Ma lo sai che. Lo sai, Parenzo, che la signora Concia va spesso dalla D'Urso ed è sulla copertina e sui servizi di chi? Di Signorini, cioè Mondadori, cioè Berlusconi. E come mai, secondo te, Parenzo? Frequenta luoghi frequentati dal popolo. Io sono una donna del popolo, una persona nazionale popolare, non ho nessuna... Non sono una radica chic, come voi sapete. Tra l'altro, questa settimana chi ha fatto un'intervista bellissima a tuo padre. Sì. Molto bella, molto bellina. Ma sono molto più simpatici della stampa di sinistra questi di chi? Ma, diciamo la verità, sono molto... Anche, diciamo, cose meno belle. Sono giornali nazionali popolari. È il bello e il brutto, diciamo. Diciamolo anche, dillo, la D'Urso è meglio di tanti giornalisti di sinistra. Ma guarda un po'. Diciamola tutta. No, ma non è così, Barbara lo sa anche lei. Cosa? C'ha pregi e difetti. E quali sono i pregi? Che è una persona, appunto, che fa una televisione, come si dice, nazional popolare. E questo è il pregio, il difetto qual è? Insomma, questa difesa a spada tratta di Berlusconi è abbastanza imbarazzante, ma no? Beh, difesa, perché che senso difesa? Ma quelle sono le sue televisioni, diciamo, questo è un po' il cuore di un conflitto di interessi. Come mai, no? Come mai l'onorevole Concia è spesso una delle ospiti preferite dei talk show di Canale 5? Parenzo, dammi la tua interpretazione. Lo devi chiedere a loro. Antonio Gramsci. No, ma non mi rompere le scatole con sto Gramsci. Fallo finire però. L'intellettuale può pretendere di rappresentare il popolo solo quando il rapporto è fondato su un'adesione organica in cui il sentimento passione diventa comprensione e quindi sapere. Cioè, per Gramsci, essere nella società, nelle cose, nei mercati, dalla D'Urso, quando c'era Gramsci, hai detto la cazzata della serata, sai? Ha detto la verità. Io lo ringrazio di avermi paragonato a Gramsci. Io sono una persona normale, esattamente. Ma ogni tanto lo dice la signora D'Urso che è troppo berlusconiana? Ma sì. Ma che vota secondo te? Che vota la signora D'Urso? Che ne so io. Potrebbe votare anche il Partito Democratico? Potrebbe, sarebbe clamoroso. Mi dica che gliel'ha detto ogni tanto, ti voto. Ma no, non me l'ha mai detto chi vota, io non gliel'ho mai chiesto. Mamma, che amicizia ci avete, non mi chiedete manco per chi votate. Vabbè, che... ma c'è un'amicizia professionale. Adesso sta rinnegando pure l'amicizia con la Durso. No, no, figuriamoci. No, cioè, non è che non ci vediamo mai, ci vediamo nelle trasmissioni, certo, non ma mi racconta per chi vota. Vero? Come? Scusa, Parenzo, che hai detto? No, dico, non è lesbica la D'Urso, non lo so. No, ma che c'entra lesbica, ma... mamma mia? Dici delle cose assurde. Anche se lo fosse, ma io posso passare da Gramsci, vedi? Cioè, anche se lo fosse non ci sarebbe ovviamente niente di male. Se no poi l'icone gay non ci diventate più con tutte queste domande. No, così. No, ma che c'entra? Mica sono domande omofobe queste qua, no, per carità. Lo sai che la signora Biancofiore ha detto che i bambini possono nascere disturbati all'interno di una coppia gay e che li piglierebbero per il culo di continuo a scuola? La scienziata, diciamo. La scienziata ecco. Biancofiore. Vabbè, comunque se fosse gay ti piacerebbe la signora D'Urso? Se una fosse bella così. Donna che beh, diciamo, a me non è che mi piacciono solo le donne che sono gay. Vabbè, se fosse disponibile te la faresti una bella storia se fosse disponibile. Madonna, diciamo la verità mia, no. Perché no? Perché mi sono molto innamorata di Riccardo. Vabbè, ma è così, una cosa generica, una cosa vaga. No, vabbè, fammi andare. Ciao, va? Ciao, ciao, ti abbraccio. Ciao. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Fabio da Roma, Fabio, buonasera. Fabio? Buonasera. Sì, aspetti, io voglio far risentire a tutti il nostro annuncio che abbiamo avuto in esclusiva, in diretta qui. Le dimissioni di Ratzinger. Cari fratelli e sorelle e cari ascoltatori di Fede e Non che mi ascoltate dalla radio, in questo giorno particolare desidero annunciare a voi la mia decisione di interrompere il mio servizio pontificio. Annuncio che faccio a tutti voi papale. Non mi molesta il moschito. Allora Fabio, che diceva? Buonasera, mi deve consegnare la zanzara perché mi sento un po' scarichi stasera. Scarichi in che senso? Caso. Sì, mi sento un po' scarichi. Ma no, non siamo scarichi per niente. Quello sta sta un viaggio sul torpedone, come al solito è inefficiente, ma insomma ormai l'ho dato per scontato. Ma vabbè, sei in torpedone, vabbè, è la solita roba con la linea che va e viene. E io mi sembro abbastanza carico. Comunque Fabio, dica. Secondo me c'è gatta che cova, nel senso, non è che è il peccato avete preso in considerazione il consiglio di Eliseo, il famoso Eliseo. In che senso, scusi? Il senso del semaforo rosso, insomma, ecco. Il semaforo rosso, il consiglio di Eliseo, me lo ricordo. Quello di labbra di velluto. Ma cosa c'entra con... Cioè, per quello, lei dice che, vabbè, Fabio, adesso... Troppe energie sono andate, No. Quando mai? Oggi non abbiamo fatto nulla da questo punto di d'accordo. Vista. D'accordo. E allora, dopo questa stronzata? Sì, dopo questa stronzata, perché a quest'ora non ce ne potevo, io ieri sera non riuscivo a dormire, pensavo... Sì. Luciani, alla sua vita privata, è tormentata, sempre piena di sacrifici, a studiare... La immagino là nelle sudate carte, e sempre per stare sul pezzo, chiaramente un'altra di qua, un'altra di là, lo spread di qua, di là, e quindi questa vita di sacrificio. E invece, dall'altra parte della medaglia, non è così: nel senso che c'è il Parenzo che passa le giornate in bagno, si è diplomato. Ma lei sta dicendo che uno studia e poi dall'altra parte c'è Parenzo che si guadagna da campare tirando lo sciacquone. Secondo me non è giusto, sì. E vabbè, io Fabio, ma in realtà questa cosa è un grande godimento, io l'ho sempre detto. Lei magari rosica, lui gode perché viene pagato anche per tirare lo sciacquone, ma sa, se lo tira lei lo sciacquone non succede un cazzo, non le danno una lira, anzi probabilmente la cacciano fuori. Però io immagino la sua vita privata così intensa di studio. E poi dall'altra parte invece dove ha fatto le scuole? Dove si è diplomato in scaricologia Parenzo? Anche però aspetti, ho un omaggio per Parenzo, un attimo. Sì, ma se lo fa lei non succede nulla. Ma no, lo faccia pure. Sì, Fabio, ma non fa ridere nessuno. Sì, va bene, ma non succede, non fa ridere, cioè, lei è un maldissuto. cioè dimostra in media sociale, dimostra di essere un malvissuto, perché capisce che è un déjà vu, è come se lei, è come il quadro di Fontana, se il taglio di, se il quadro di Fontana lo fa lei, se lei fa un taglio su una tela non si vede un cazzo, capito? Ma il par condicio, però a me... Ma che par condicio? Lei è ridicolo, lui lo fa, è un'opera d'arte, lei lo fa nel momento, lui lo fa nel momento giusto, lei lo fa così per imitazione, per dare un segnale a Parenzo, ma lo sapevamo tutti quello che stava facendo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Meglio di un comico! Beh, vi proponiamo il mitico sindaco di Salerno Enzo De Luca, che sbertuccia in questo modo Mario Monti. Senti, lei senatore a vita Monti, con tutto il cane in mano, che tristezza, siamo a un livello tale di propagandismo. Vede che faccia propaganda un politico di professione, e va bene, che si metta un chihuahua sulla testa Bersà, e va bene, che lo faccia Vendola, e va bene, che lo faccia Berlusconi. Berlusconi deve fare l'istrione, le battute, il cabaret, il cucù, si alza, si... Che paese! Ma che pure Mario Monti si sia fatto convincersi a fare lo spot elettorale con il cane in mano, i nipotini, la nonna, la zia. E io non ce la faccio. Beh, siamo al top, siamo al top. È un genio, ha ragione. Mimmo da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, ci siamo? Dica, dica. La ringrazio intanto per lo spazio che mi dà per poter esprimere ciò che penso io. Già ha perso 10 secondi. Lo so. Dottor Fugiari, per me il male minore è Silvio Berlusconi. Il male minore è Silvio Berlusconi. Il male minore è Silvio Berlusconi. Sì. E, mi creda, glielo dico, ho 54 anni, sono un piccolissimo imprenditore, sì, e mi sento per la prima volta a votare lui e sono veramente felice, felice proprio di farlo, e invito tutti coloro che ascoltano la sua radio di seguirmi, perché... Vabbè, lei sta facendo un appello elettorale per Berlusconi, in sostanza. Sì, un corno, Mimmo. Non è che qui uno chiama e fa l'appello elettorale. Cioè, chiedo a chi ascolta di votare per Berlusconi, ma chi se ne frega? Non mi dica così, c'è gente, la maggior parte, cioè, tutte le telefonate che sto ascoltando da qualche giorno a questa parte sono tutti contro di lui, ce n'è uno a suo favore, me lo faccia dire. No, no, ma ho capito, ma lei argomenti su qualcosa, non è che... Ma io le faccio dire quello che pensa, ma lei non può fare un appello così smaccato. Non lo consideriamo un appello, è il mio pensiero personale, va bene? È il suo pensiero personale, no, faccia questo appello, avanti, si mette al megafono. Anche col megafono, perché del dicevo lo facevo. Io allora le do subito la formazione. Sì. Presidente del Consiglio sarà Mario Monti, ministro dell'economia sarà Silvio Berlusconi. Ma che c'entra Monti, scusi, che c'entra Monti? Mi faccia ma ho capito, Mimmo, ma i due non si possono vedere, si insultano ogni giorno, ma di che sta parlando? Perché Bersani, Monti e Vendola, ma stiamo mi faccio la domanda piuttosto, Fine e Casini, ma chi li vuole? Ma stiamo scherzando, ma chi sono? Ma stiamo scherzando, ma che gente è questa? Dicendo, ministro, presidente del Consiglio Monti, ministro dell'economia Berlusconi, ma che è un'ipotesi irrealistica, impossibile. Mi fa dire anche il presidente del Senato? Sì, avanti. Angelino Alfano. Poi? Ma io penso che la droga sia veramente un problema. No, non mi sono mai drogato, caro Parenzo. Non mi sono mai drogato. Guardi, l'acqua come lei, non mi ascolta nessuno, però lo faccio con piacere, mi piace anche il gorgheggio che fa, però mi creda, non mi sono mai drogato. Anzi, non si direbbe. Non si direbbe? No, secondo me l'hanno sedata male. L'hanno sedata male. No, assolutamente. Non sono stato, qualche volta sono stato pure sedato, purtroppo per problemi chirurgici, però grazie a Dio è andato bene. Ecco, appunto, secondo me non ha ancora superato quella fase, cioè quella della sedata. L'ho superato, glielo giuro, l'ho superato. Vabbè, grazie. Giuliana, provincia di Piacenza. Giuliana, dica. Sì, sono Giuliana. Vada. Senta, la Chiesa è arrivata a un momento cruciale per mettere il matrimonio in Chiesa. Sì. Anche gli omosessuali. Ecco, in altro, Allora? Forse il Papa sarebbe pronto, ma gli altri non lo sono. La Chiesa insegna, ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, te non sei omosessuale. Non c'è per dubbio. Me questo è il motivo delle dimissioni del Papa. Ah, certo. E per me il Papa è molto sano e lucido di mente, chiami più tu, di Parenzo, tutti gli altri. Parenzo, chiami tu. Caro, allora, signora, fare, scusi, provi a capire qualcosa. Sì, certo, non c'è dubbio. Signora, scusi, si mette, torni nel lettino stanza 4, lettino 14. Adesso arriviamo con una minestrina calda con i quadrucci in brodo di verdura e poi una signora. C'è anche con... la pera cotta, eh? C'è anche la pera cotta. C'è anche la pera cotta, un po' di cracker. Anche la pera cotta, ma che. Ma va proprio bene, guarda, per fare andare di corpo. Ah, appunto, non c'è dubbio, è l'ideale, è l'ideale. Si metta tranquilla che adesso veniamo. Due pillole, una rossa e una blu, 40 mg sì, l'uno, sì. E poi una flebo. Domani sta e meglio, va bene? Volete ancora? No, basta. Volete farlo? No, no. Sono troppo vecchia, non si può più fare niente. No, ma no, ma per carità, la vogliamo. La vogliamo in vita, viva e vegeta. La vogliamo aiutare. Mi dà fastidio che sono d'accordo con il Papa. Ha fatto bene, non vuole fare quello che vogliono gli altri. Ma che vuol dire, signora? Scusi, ci spieghi bene. Gli altri non vogliono che la Chiesa faccia i matrimoni omosessuali. E quindi il Papa si dimette per questo. Non c'è dubbio. Guardi, domani andrà meglio, non si preoccupi. La Zanzara. Quando la zanzarina... Scilipoti abbandona Brontolo, Rai 3, sentite. Senta, onorevole Scilipoti, catapultato, che mi dice di questa catapulta, che mi dice del terremoto del Pollino? Ma intanto lei utilizza una terminologia scorretta perché io non sono stato catapultato. Amico, lo io sono in Calabria. Scusi, intanto mi faccia finire di parlare. Lei ha fatto la domanda, io rispondo, così ci capiamo. Sì. Allora, intanto io non sono catapultato. Ecco. Io la regione Calabria la conosco e no, lei non mi deve interrompere, se non mi alzo e me ne vado. Perché lei mi deve... Allora, Scilipoti, se ne vada tranquillamente. Arrivederci, buona giornata, perché lei è un grande scorretto e non fa informazione, ma è solo di parte ed è veramente una cosa vergognosa quella che lei fa. Arrivederci. Arrivederci. Perché lei non ha interesse a fare televisione. Ha ragione. La interesse Scilipoti. Soltanto a creare problemi e difficoltà. Lei è la vergogna domanda. Di questo paese, dal punto di vista giornalistico. La vergogna di questo paese. Scilipoti, bella prestazione. Per cortesia, inquadrate ancora l'onorevole Futuro, forse. Lei è al servizio di qualcuno, ma è una mediocrità che fa paura. Bene. Arrivederci. Ma non mi deve dire nient'altro. Agli altri che sono in studio e al pubblico, ma lei sicuramente no. Arrivederci. Saluto, però va salutato. La persona è educata. Poi ha sempre in testa questa cosa della mediocrità, no? Sei un mediocre, sei un grande mediocre, ti ricordi che diceva? Ma come no? Ma certo, sei un grande mediocre. Me lo diceva a me, certo, sei un mediocre, Parenzio, mediocre. Altro grande ospite della serata, altro grandissimo ospite. Beh, qui Ferruccio abbiamo De Bortoli. No, la notizia è un'altra. No. C'è qualcuno che già ha in mente il dopo Ratzinger. Marco Pannella, buonasera. Allora, noi radicali, liberali, liberisti e libertari abbiamo detto e lo diciamo qui. Sì, cosa? Vabbè, sempre con sta tosse, sì. Candideremo alle elezioni europee Papa Ratzinger, capolista in tutte le circoscrizioni. Ma come nessuno europee? Tocchi Caino, Tezzi, non c'è pace senza giustizia, Luca Coscioni, Mina Welby, aborto, amnistia, subito Papa Ratzinger, capolista radicale, radicale. Beh, ho capito, però come fa a essere, scusi Pannella, capolista radicale? Poi come si chiamerà questa lista? Scusi Pannella. La lista si chiamerà amnistia, indulto, non c'è pace senza giustizia, biotecnologie, laicità, no Taliban, no Vatican. Ma è troppo lunga. Toni negri in Parlamento, libertà, diritto, democrazia, costituzione, antifascismo, antimilitarismo, scusi, tutto... radicale, liberale, liberista, nessuno tocchi Caino, partito transnazionale, ma Pannella, tutto... presidente, Emma Bonino, Lorenzo Strickliver, Maurizio Turco. Ma tutto dalla stessa lista queste cose qua. E il nome della lista deve prendere tutta la pagina, tutta, non c'è pa, tutte le associazioni radicali. Vabbè, Papa, Ratzinger. Capolista subito, ora, vabbè, ho con capito. Noi. Grazie. La laicità dello Stato. Grazie, aborto, ma non è divorzio, proprio... obiezione di coscienza, Lorenzo Strickliver, Maurizio Turco. Vabbè, ho capito. Cina libero, Tibet libero Falun Gong ora, subito. Allora, andiamo dopo Pannella, andiamo a sentire... candidare Pannella? Ma che ne so, Ratzinger, capolista alle elezioni europee, una cosa pazzesca. Claudio da Verona, buonasera. Buonasera. Dica. Complimenti. Preferisco De Luca quando prende in giro Bersani sul fatto... No, prende in giro, dice... Monti soprattutto, Monti. No, ma no, mi piaceva molto... Ah, del Toscano, quella del Toscano. Del Toscano, sì. Che era più bella. Ma siamo infatti però, siamo al top della comicità anche per De Luca, che io apprezzo tantissimo come sindaco di Salerno, per carità. Indubbiamente, però, indubbiamente. Però. Un po' meno perché su certe cose, su certe attività mi sembra un po'... Vabbè, allora... No, io ho un grande rispetto per lui, tanto complimenti, non serve... Va bene, poi andiamo avanti... Io credo che voi, che io ammiro moltissimo, sì, va bene. In un momento così importante come sì. quello di Papa Ratzinger, e che dobbiamo fare? Dite quello che pensate, ma in maniera di un futuro. Non prese in maniera, non ho capito. In maniera di un futuro importante, che è quello che della Chiesa che sta succedendo, di un uomo che ha fatto un gesto, secondo me, stupendo. Dunque, che cosa che dovremmo fare? Dire quello che siete, voi siete fantastici, non prenderlo in giro come... Ma noi non prendiamo fatto. In giro nessuno, prendiamo in giro tutti e nessuno, non ho capito qual è il punto. Voi siete fantastici, non dovete, io ammiro Lopez che conosco, Crozza che conosco, però voi siete superiori a loro. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? C'entra perché è una cosa importantissima. E sarà pure importante. Ma noi facciamo una trasmissione radiofonica, non facciamo l'omelia papale, capito? Cioè, voi facciamo... siete di più. Ma, chi, ma questo più. Lo dice lei. Quando avete trovato quel termine, quell'argomento importantissimo che riguardava i bambini nel mondo che prendevano, che la canzone che prendeva in giro Berlusconi, siete stati grandi e ve lo posso garantire io che seguo il mondo dei bambini, siete stati grandi, voi siete dei grandi, un argomento così importante trattatelo a modo vostro, ma trattatelo come sapete fare, siete fantastici, non prendete in giro il Santo Padre con tutto quello ma che chi l'ha preso in chiesa. Giro? Ma abbiamo mandato in onda abbiamo mandato abbiamo mandato in onda un'imitazione e basta con sto fantastico, mi ha rotto i coglioni già, io non ho detto questo, io ho detto semplicemente grazie. Un'altra cosa, io ho detto che abbiamo mandato in onda un'imitazione di Ratzinger, qual è il punto? No. Un attimo pronto? Signora Carcano? Sì? Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, la disturbo? Più che altro che sta salendo sul palco con Beppe per lo tsunami Mantova. Sì, no, volevo sapere questa cosa qui dell'abolizione dello Stato Pontificio. Posso però richiamare, cioè, perché stiamo proprio salendo sul palco. Stiamo va bene. Di mangiare, no, ma è vero che lei vuole grazie. Abolire lo Stato Pontificio? Ma sciogliere lo Stato, sciogliere, è come uno scherzo, sciogliere lo Stato Pontificio, lo scrive su Twitter. Salve Crociani, buonasera. Ho capito, signora Carcano, è vero o non è vero? Lo scrive su Twitter, risponda. La cosa pazzesca, vogliamo uno scherzo, ma quale scherzo? Perché ha chiuso? Ma che ne so, non ho la minima idea. Fabrizio da Brescia, buonasera. Ciao ragazzi. Vada. Ma sono da Roma, no da Brescia. Vabbè, dov'è? Uguale. No, ci sono due Fabrizio in realtà. Ci ma sono due ho Fabrizio. Scoperto che la Carcano sta a Mantova, quindi i folli tutti a Mantova questa sera ci stanno. Ah, perché c'era quello che ha chiamato prima, sì, da Mantova. Sì, quello, vabbè, quello veramente stiamo sul ridicolo. Cioè, parliamo sciogliere lo Stato Pontificio. Vabbè, questa è una cosa che... Vabbè. Visto che il Papa facciamo... si dimette, propongo sommessamente lo scioglimento dello Stato Pontificio, così facciamo prima. Sì, beh, ma... connettiamo praticamente l'Inghilterra agli Stati Uniti, il Brasile alla Guinea, che facciamo? Dai, vabbè, allora? Di risico. No, io dicevo il discorso di Mantova, di quel signore di Mantova, ma veramente, ma esiste ancora gente del genere? Ma di che cosa stiamo parlando? Di nanetti sterminatori, di lobby? Vabbè, ma lasciamo perdere, non no, c'è mai... la stupidità, beh, questa, veramente. Ma non c'è bisogno di commentare, su. Sì, no, il problema è che sono tanti questi qua, sono persone che... Signori, andiamo a votare, ma col cervello, col cervello. Ognuno va a votare come vuole, anche senza cervello, guardi. Scrive Saviano, anche perché scrive Saviano, mi dispiacerebbe, e lo ripeto, se queste dimissioni rese pubbliche ora e non dopo la formazione di un governo, non vedo la connessione tra la formazione di un governo in Italia e le dimissioni del Papa, adesso francamente. Fossero strategiche per la campagna elettorale, mostrare la fragilità della Chiesa per chiedere compattezza al voto cattolico. Ma vi rendete conto della enorme puttanata che è stata scritta? Cioè, secondo Saviano, forse. Beh, se consideriamo che e meno male ci mette i Balotelli, figuriamoci. Allora, e meno male che ci mette il punto interrogativo. Il Papa si sarebbe dimesso durante la campagna elettorale perché in questo modo la Chiesa apparirebbe fragile e dunque i voti cattolici si compatterebbero. Non si capisce verso chi, però, non si capisce verso chi. Verso Berlusconi, perché ha aperto il primo posto di lavoro dei 4 milioni che ha promesso, no? A tempo indeterminato, poi. L'annuncio in italiano delle dimissioni del Papa in esclusiva qui alla Zanzara. Cari fratelli e sorelle e cari ascoltatori di Fede e Non che mi ascoltate dalla radio, in questo giorno particolare desidero annunciare a voi la mia decisione di interrompere il mio servizio pontificio. Annuncio che faccio a tutti voi papale. Parenzo alle prese con donna assunta Almirante. E lo sbertuccia un po' come al solito, lo sbertuccia. Come sta? Io sto bene, non mi vedete, mica vi devo dare il certificato medico, che volete? Ma chi è venuta qua da Berlusconi? Chi è venuta a fare? Ma io voto Berlusconi. Come vota Berlusconi? Certo, voto mia figlia e Berlusconi. Rassicuriamo Sallusti, Giannino ha 3 gatti in casa, Ha aperto una sezione fare miau. Io adesso che ce ne ho 3 a casa, si sono iscritti al mio movimento con un nuovo programma che non è fare per fermare il declino, ma è fare miau. Quindi abbiamo aperto una nuova sezione a casa. Si chiamano Topolò, Topolà e Topolush. E non Artù come il primo, lo sbranatore, Ma tu quale volevi risentire di Giannino? Bisanzio, hanno paura, Scilipoti calci nel culo, neanche un voto a questi miserabili. Miserabili, forse è bello, neanche. Ma anche Bisanzio è meraviglioso. Miserabili, prima i miserabili. Noi non saremmo andati a regalare un voto a questi miserabili! E poi Bisanzio, va Bisanzio, anche se un po' lunghetto, Bisanzio, Berlusconi, Gandhi, grazie, Bisanzio. Grande metafora. Hanno riso sul fatto, per farvi capire che queste robe ci riusciremo a levarli dai polsi delle famiglie e delle imprese. Allora io ho detto, ma è come Gandhi, no? Come Gandhi? Anche Gandhi ha cominciato da solo. E poi a un certo punto Mahatma Gandhi ha detto, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, ma poi vinci. Allora, un noto giornalista di un gruppo editoriale indipendente dalla politica ha scritto: si è montato la testa, crede di essere Gandhi solo perché è pelato. La mia risposta, ma ci vediamo più tardi, è un'altra. No, io non sono Gandhi. Ma soprattutto Berlusconi non è l'impero britannico, è Bisanzio! Adesso vi presento uno straordinario candidato, Paolo Dalbard, candidato in Val d'Aosta con la destra. Sentitelo, ma dovete soprattutto vederlo su YouTube. Sembra ubriaco quando gli fanno le domande, come dire, banali che si fanno quando uno deve fare uno spot elettorale di quelli che devono passare per forza per la televisione. Sentitelo, sembra veramente ubriaco, ma forse lo è. Le ragioni di questa candidatura. La voglia di fare politica, politica nuova. Politica nel vero nome della cosa, politica che non esiste più assolutamente in Valle d'Aosta, assolutamente. Nel vero nome della cosa, ma cosa? Nel vero nome, voleva dire forse nel vero senso del termine. Senti, come si è candidato con la destra, Dalbard? Lei è stato candidato con... Mi sono autocandidato, ho fatto tutto io, ho creato la destra su spinte... In Valle d'Aosta sono il segretario regionale della destra. Veramente ho cercato un deputato e un senatore, però Non l'ho trovato. Ma come non l'ha trovato? Come? Credo nella politica finché... Senti. Lei crede nella politica? Sì. Finché ci sono io, sì. Stavo dimenticandomela. Dico la verità, la stavo dimenticando. Lo sai che la signora Angela Bruno, che lavora per il gruppo Green Power, quella che Berlusconi gli ha detto quante volte vieni, no? Sì. Oggi ha risposto dicendo ad alcuni giornali, dicendo no, ero divertita e onorata. Sono stata colta alla sprovvista, ho avuto un attimo di spavento, mai avrei pensato di dover vendere qualcosa a Berlusconi, imbarazzata no, divertita e onorata, è stato bello, una cosa simpatica, eccetera, eccetera. Addirittura incornicerò questo contratto che ho fatto firmare a Berlusconi e lo metterò nel mio ufficio. Dunque se ne fotte di tutte queste polemiche, di questa cosa sociologiche, un po' ridicole, sulla battuta di Berlusconi. Se ne fotte, l'idea diretta interessata, se ne fotte. Devo dire però che Mara Carfagna, chiamata in causa su sì, questa cosa qui, ha detto beh, ma Berlusconi, però poi si è incazzata con Neri Marco Re, perché secondo lei sarebbe stata volgare una battuta di Neri Marco Re. Questo a Ballarò. Questo non si può. Allora, ti incazzi con tutti, oppure non è che con Marco Re no, e con, sì, e con Berlusconi no, su. E questo secondo lei autorizza un suo comico a fare una battuta volgare su di me? No. Però quando lei dice so che non mi sfugge niente, immaginavo non le fosse sfuggito. Ma infatti non mi sfugge, io non ho mai omesso di commentare. Però no, scusi Floris, scusi. Questo non autorizza un suo comico a fare una battuta volgare su un suo ospite. Ha ragione, però uno è un comico, uno non dovrebbe essere. Ci mancherebbe, ma non autorizza a fare una battuta volgare un suo ospite, quindi se come penso io pretendo le scuse. Intanto mi scuso io per parte di Neri Marco Re, ma immagino lo farebbe anche lui. Poi a un certo punto lo stesso Floris fa sentire la campagna, ma Berlusconi, cioè fa sentire la frase di Berlusconi a quella signora, no? Appunto. Senti la campagna. E questo secondo lei autorizza un suo comico a fare una battuta volgare su di me? No, no. Però quando lei... Poi lo troviamo. Marco da Roma, buonasera. Ma vogliamo fare i complimenti a una giornalista? Ma a chi? Questa dell'Ansa, avanti, non fare la tua solita lecchinata. A Giovanna, no, ma perché è bellissimo come è andata, Giovanna Chirri. Vabbè, ma adesso hai letto questa cosa mentre sei nel torpedone e ti è venuta la fissazione di fare i complimenti. No, io me ne fotto prima dei complimenti. Marco da Roma, dai, non li voglio su perché di me. Non è che... latino, ma non siamo qui a fare i complimenti alle persone, non mi piacciono nemmeno quando me li fanno, dai, su, ma fammi sentire. Ma non me ne frega diventasse niente a me, Marco da Roma. Della zanzara. Va bene, d'accordo, Marco da Roma, facciamogli tradurre in latino. Non me ne frega a me dei complimenti, devi fare i complimenti alla gente, divento pazzo io, Marco da Roma. Ma dai. Giovanna Chirri, ma me ne sbatto, Marco da Roma. mi sente? Dica. Che sarà? Niente, volevo semplicemente dire che è un grande dolore queste dimissioni di Papa Ratzinger. Sono un grande dolore. Ma perché un grande dolore? Perché? Il papato dentro i limiti della religione, cosa che il suo predecessore, grande affabulatore, grande intralazzatore. Senta, Marco, che cosa vuole dire? Io non ho capito nulla. Se ci vuole fare una sua analisi personale su questo papato e sull'altro papato, non me ne frega niente. Mi dica qualcosa di originale, di divertente, altrimenti chiudo e passa un altro. No, molto semplicemente che Papa Ratzinger era un papa con tutte le sue, con le sue scarpine bianche, con rosse semmai. Sì. Vabbè. Sue... Fabrizio da Brescia, buonasera. Buonasera dottore. Dica. Allora, il mio intervento verte su due temi. Sì, due temi. Due temi, se mi permette. Sì, prego, come no. Benissimo. Il primo è sul coppie gay. Sì, coppie gay. Allora, al di là che se si vogliono sposare, fondamentalmente su questo non ho un'opinione, diciamo che non mi interessa più di tanto. Non le interessa, allora che cosa parla a fare non si capisce, comunque non le interessa. Spiego, però sull'adozione sono estremamente contrario. È contrario, bene, abbiamo registrato. Poi, seconda cosa? Ok, vuole che argomenti o non le interessa? No, sì, mi interessa, però insomma, vada. Ok, seconda cosa, forse più divertente e interessante. Sì. Allora, credo di andare controcorrente nel dire che il tema dello stipendio dei politici, secondo me, non è tanto importante quanto guadagnino. Tutti vogliono dimezzare gli stipendi ai politici, ma l'importante non è quanto guadagnino, quanto rendano. Mm. Allora, ci sono stati molto evoluti al mondo, sì, dove gli stipendi guadagnano un sacco di soldi, dove i politici, mi scusi, ma guadagnano... Non mi risulta, guardi. Bene, sud-est asiatico, ad esempio. Ma nel sud-est asiatico sarebbero dei stati da prendere a modello, secondo lei? A livello di efficienza di Stato sì. Sì, certo, spesso la democrazia la fa, insomma, lascia desiderare, ecco, come no, dire, le no? Pongo un esempio, guardi, Singapore. Sì, Singapore infatti è uno splendido esempio di democrazia. Di democrazia, allora, sì. Di efficienza di Stato, sto parlando di efficienza di Stato. Parenzo, ma devi chiamare qualcuno tu questa sera o c'è bisogno che io chiamo un rinforzo? Come? Guardi che io sono tornato. Chiamo un rinforzo io? Non ho capito, Fabrizio, che cosa vuole dire lei? Che in alcuni casi i politici vanno pagati di più? Sì, ecco, me lo dica, allora, con precisione. Che secondo me sarebbe interessante riuscire a valutare i politici, sì, per quello che fanno. Ma e no, magari ma che è una cosa strana. Mi permetta di finire. Sì, sì, no, perché magari, no. Magari riuscire, io lo sto dicendo, sì? Magari riuscire a, sì? Con degli indici, dei quozienti, come si fanno nelle, sì, grosse imprese, perché uno Stato, seppur pur avendo, Fabrizio, guardi che si fa anche adesso, non c'è bisogno che lei ci porti la scienza da Singapore, eh? Si fa anche adesso quello di valutare i politici dall'efficienza, cioè a seconda di quante proposte di legge abbiano fatto, delle presenze eccetera, c'è un bellissimo, sì, sito che si chiama Open Policy. Open Policy. Ovviamente la valutazione dell'efficienza dei politici non è una cosa semplice, perché non si può prendere in considerazione solamente la presentazione di un disegno di legge, perché a quel ovviamente punto basterebbe una macchinetta per produrne 100 al giorno, certo, e uno sarebbe efficientissimo, le votazioni, ci sono tanti metodi. Per certo, cui non... però scusi, come mai allora i grandi manager, cioè io non mi scandalizzo quando vedo dei grandi manager. Sì, ma la politica non è un'azienda, cioè non ha gli stessi criteri, ha capito? Solo per certi versi. Allora, per i versi economici e di redditività dello Stato si potrebbe provare a studiare certi tipi di criteri. Questa è l'opinione. Dopo ovviamente... Va bene, grazie. Non... Alessio da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera Cristiani. Io volevo solo dire una cosa sulle dimissioni del Papa. Sì, vada. È che a mio avviso, diciamo, sono rimasto un po' stupito. Ecco, ma no. Perché cade proprio, che cosa strana, l'infallibilità del pontefice. Ecco. Cade l'infallibilità del pontefice. Ecco la novità della serata, Parenzo. Cade l'infallibilità del pontefice. Che vuol dire, Alessio? L'infallibilità è che il vicario di Cristo, insomma, non porterà più la croce di Cristo, cioè l'infallibilità, la cosiddetta infallibilità del Papa. Il Papa non, sì, è più il figlio di Cristo, non è più il vicario di, sì, Cristo, ma è alla fine una persona normale come tutti gli altri. Mm. E per il mondo cattolico un bel colpo. È un bel colpo. Io ripeto ancora una volta che abbiamo avuto in esclusiva qui alla Zanzara, lo facciamo riascoltare ancora, la voce di Papa Ratzinger in italiano, dillo anche tu Parenzo, in italiano, certo, beh, perché lui ha dato l'annuncio alle 11.46 in latino, una bravissima giornalista dell'ANSA lo ha tradotto così immediatamente. Mamma mia, rompicoglioni che sei, dai, forza. Noi abbiamo chiamato il Vaticano, sì? e ci ha risposto il Papa Pontefice, insomma. Dimissionando? Il Sommo Pontefice, dimissionato. Beh, ancora no ufficialmente, io al 28, dimissionando. Beh, il 28 febbraio, però il ragionamento che faceva la signora prima non è sbagliato. Sì, sì, fammi sentire Ratzinger intanto. Perché, te lo spiego, teologico. No, non me lo spiegare, non c'è bisogno. Cari fratelli e sorelle, e cari ascoltatori di Fede e Non, che mi ascoltate dalla radio, in questo giorno particolare desidero annunciare a voi la mia decisione di interrompere il mio servizio pontificio. Annuncio che faccio a tutti voi papale. Beh, insomma, no, bel colpo, no? Sì, ma mi piace poi riascoltarlo, come dice papale, ve lo dico papale. È stato anche, no? Ve lo dico papale. Beh, io ti ho portato qui una grande protagonista della della politica italiana e non solo italiana, per commentare la situazione della campagna elettorale, ma anche le dimissioni del Papa, caro Parenzo. Quindi è una donna, dici tu, una donna, di, certo. di respiro internazionale. Beh, sì, sicuramente di respiro internazionale, non c'è dubbio. Potrebbe essere Cristina Manpur, della Cristina Manpur, bravissima inviata. No, Cristina Amanpur si chiama, tra l'altro. Amanpur, no, sì, non Manpur. Mamma mia, Amanpur. Che tragedia che sei. Poi chi potrebbe essere una grande donna? Ah no, vabbè, potresti aver collegato da Parigi Barbara Spinelli, forse. No, no, no, assolutamente no. Non no, è no. Barbara Spinelli, no. Che è molto brava, peraltro. No, assolutamente. Potrebbe essere Rossana Rossanda, stupendo, anche lei da Parigi, fondatrice del Manifesto, la Rossanda, grande donna, intellettuale, buono, bello. No, bello. Flavia Vento, buonasera. Buonasera a tutti, come state? Bene, come va il castello? Come va il castello? Benissimo, qua insomma c'è il tritone. Il tritone, è arrivato, sì. Pure il pirata Guillier col veliero. Il pirata? Il pirata? Guillier. E chi è sto pirata? È un pirata, è venuto a trovarmi. Ma non è il poveretta, questa prende psicofarmaci pesanti, poveretta. Ma non è il coso, il pirata. Sì, ma dalle ragione, se no sarà più stronzati. Sì, è vero, pirata è venuto, no, sì. Io non uso le droghe, io uso l'immaginazione, perché secondo me usare la fantasia è la cosa più bella che c'è nella brava, vita. Brava, brava, brava, lo lasci perdere Parenzo che non capisce. Vorrei lanciare un messaggio contro per i giovani, non drogatevi che fa male. E questo è la fantasia. Straordinario. E questo va bene. Scusi, chi è arrivato? Il pirata Ghie. Sì, il pirata Ghie e il tritone Aksaur. Il tritone Aksaur, che fanno? Il tritone Aksaur, no, il tritone Aksaur, no, ti prego. Dove hanno parcheggiato questi signori? Loro hanno parcheggiato i loro velieri vicino alla mia grotta, perché insomma adesso sto con la maga Circe e stiamo per andare a cena. A cena ci sono i cannolicci e poi e i proci? Dove sono i proci? I proci? Sì. I proci li abbiamo già trasformati in marinai, sono già nati verso Itaca. Hai capito? Hai capito, Parenzo? Quindi siamo in un mondo. Siamo streghe buone. Non siamo in un mondo fantastico. Cattive. Siamo in un mondo fantastico. Scusi, come si commenta al castello? Come l'avete presa al castello la notizia delle dimissioni del Papa lì al castello Vento? Guardi, ci siamo rimasti un po' male, nel senso che male. Poi comunque ci è dispiaciuto, però comunque se la sua salute non andava bene o comunque non se la sentiva più, però credo che però Dio, sì? Nel senso non è così, nel senso che se senso? Uno prende un incarico lo deve portare a termine. Ah, è una critica, capito Parenzo? Una critica al Papa. Se uno prende un incarico. Se uno prende un incarico lo deve portare fino in fuori, che non è stupida come cosa, però guarda. Inutile... No, la verità, però insomma, io vi dico la verità, io non sono cattolica, io ovviamente sono di un'altra religione, quindi una religione molto più potente e molto più vera, secondo me. E quale sarebbe la religione di Flavia Vento? Non lo posso dire perché come è non lo forte. In che però senso? Come sto vedendo che sta dando i suoi frutti. Che religione? Il buddismo? Che cos'è? No, il buddismo porta sfiga. Porta sfiga, cioè i buddisti portano sfiga, dice lei. Sì. Il buddismo porta sfiga. Lei adesso diventerà la nemica dei buddisti dopo questa affermazione, no, lo sa, no? No, io non dicendo questo, sto dicendo che ho praticato pure il buddismo e... Però porta sfiga, cioè mentre lei praticava il buddismo come fosse un paio di mutande, le dice, ho praticato anche questo, cioè, mi sono messa queste mutande stamattina, ho praticato anche questo. Signora Vento, torni in quel cazzo di castello e chiuda tutto e si chiuda dentro. No, guarda, nel mio castello c'è una religione che parla di luce, parla, sì, di cose positive. Ah, questa parla è la religione di reincarnazione. E poi io ve lo ricordo a tutti che noi siamo qui per pochi anni e dobbiamo... Ma no, adesso questo per pochi anni mi tocco da qualche parte. Scusi un attimo, scusi se lo dico, però adesso siamo qui per pochi anni, adesso francamente Parenzo, anche ma tu lei, ma da quanto nella tempo Bibbia non fa senso di dire 400 anni nella Bibbia? Sì, lo so, beh, però sa, io comunque in qualche modo mi cautelo, ecco, come dire. Scusi, non Vento. Guardi, no, appunto. Dopo questa cosa ne vivrà altri 300 anni. Non scusi un attimo, però lei ha detto una cosa interessante. Cioè, il buddismo porta sfiga. Dunque, lei non è buddista. Che cos'è allora? Che ne so. Guardi, glielo rivelerò tra breve, perché è una cosa per me segreta. È una cosa troppo segreta. La religione. Non ci dormo la notte. Non ma ci dormo la notte, comunque c'è una... il settimo segreto di Fatima. Proprio, avete sentito anche una piccola critica al Papa da parte... Ma perché le consenti di dire ste stronze? Lo rivelerò tra qualche giorno. Ma chi se ne frega? Secondo te chi è bloccato sul grande raccordo anulare e sente la signora Vento che dice vi rivelerò di che religione sono? Ma chi se ne frega? Ma rimanga nel castello col gatto Gugu, col mostro Glux, allora, con quel cazzo di pirata. Del famosissimo pirata Ghiglie, del famosissimo Tritone Aksaour. Tritone Aksaour. La prego di dargli del lei, visto che già si stanno adirando qui nelle sale. Hai capito, Parenzo? Comunque c'è anche da dire che Flavio Vento ha criticato, guarda, l'abbiamo fatta diventare editorialista noi mesi fa, ormai dunque non si può più sfuggire a questa cosa. Ha detto il Papa non doveva dimettersi, è così, signor Vento? Secondo me sì, nel senso che se uno ha un mandato lo deve portare fino alla fine, come quello che sta su una nave e il comandante non può abbandonare la nave. E questa, guarda, che non è una stupidaggine, l'ha detto anche l'ex segretario di Wojtyla, ha detto, citando il latino. Ma non l'ha detto così, non è che l'ex segretario di Wojtyla parla del castello di Aksaour e dei pirati, capito? Cioè, il castello si chiama il castello fatato, mi scusi. Fatato. Castello, qua abbiamo tanto da fare. Comunque mi pare avete molto da fare. Dobbiamo fare pratiche religiose molto importanti. Che ci sono delle cose religiose molto importanti. Pratiche religiose. Però dovremmo indagare su queste pratiche religiose, signora Vento, mi stanno preoccupando. Cosa fa tutto il giorno questa? Cosa fa tutto il giorno nel castello di Aksaour? Cos'è che fa tutto il giorno? Castello, il tritone Aksaour. Io faccio tante pratiche e comunque sto dando un sorriso a tutti quelli che ci ascoltano. Secondo me questa è la cosa più importante. Questa è fondamentale. Scusi un attimo, signora Vento, ma l'avete presa dunque, diciamo, come una certa sorpresa la dimissione del Papa, non c'è dubbio. Ma le avete chi? Ma chi? Nel castello. Secondo me, dopo questa dimissione, sicuramente qualcosa cambierà. Mi fa una riflessione molto profonda. Comunque, ciao Fredo, grazie. Io vi aspetto una sera a cena qui al castello, siete benvenuti. Noi veniamo a Roma nei prossimi giorni, dunque possiamo farci vivere. Siamo venuti al castello fatato, che qua insomma adesso stiamo cucinando, sì, ovviamente cose vegetariane. Ma cosa mangia il pirata Ghiglie? Ma che è da sola, non ci sono pirati, basta. Il pirata Ghiglie adesso sta bevendo un amarone e si sta fumando il sigaro, sì, perché ha fatto un'escursione, non so, mi pare a Ponza. Sì, a Ponza, il pirata Ghiglie. Ha mangiato un fungo allucinogeno, dai, ha mangiato il fungo allucinogeno. Comunque la religione di Flavio Vento deve essere svelata nei prossimi giorni, è importantissima questa cosa. Guardi, ma... Non sarà mica Scientology, no? No. Ah, ma qui sono preoccupato. Però sennò... è una cosa troppo forte. Troppo forte. Verrà rivelata al mondo. Potrebbe condizionare il mondo. Grazie, un abbraccio a Flavio Vento dal castello. Dal castello fatato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.